Sono qui per l'amore, per le facce curiose che fa, per la coda alla cassa, con il saldo più o meno a metà, per le gabbie di carta e la chiave scordata in cantina, per il giro del sangue, per quello del vino. Sono qui per l'amore, per difendere quello che so, per le rampe di lancio e lo sporco che riga gli oblò, che nel lancio ci siamo con la torre controllo lontana, il brico sul fuoco e la fiamma puttana, con tutto il sangue andato a male e poi di colpo questo andarsi bene, un solo sole che forse basterà, con tutto il sangue andato a male, poi di colpo questo andare insieme in una vita che forse basterà, questo andarsi bene qua. Per l'amore e per tutto il rumore che vuoi, e i brandelli di cielo che dipendono solo da noi, per quel po' di sollievo che ti strappano dall'ombelico, per gli occhiali buttati, l'orgoglio spedito, con la sponda di ghiaia che alla prima alluvione va giù, ed un nome e cognome che comunque resiste di più. Sono qui per l'amore, per riempire col secchio il tuo mare, la barca di carta che non vuole affondare, tutto il sangue andato a male, poi di colpo questo andarsi bene, un solo sole che forse basterà, con tutto il sangue andato a male, poi di colpo questo andare insieme in una vita che forse basterà, questo andarsi bene qua. Sono qui per l'amore, per le facce curiose che fa, per le giostre sfinite che son sempre più fuori città. Stabiliamo per sempre le corsie che ci mandano avanti e prendiamo le multe, tutti belli e cantanti.